riempendo la piazza, un po' anche chi sarà oggi in piazza, e soprattutto che cosa si va a chiedere alla giunta Polverini. Allora sì, la piazza si sta riempendo velocemente, nel senso che fortunatamente insomma l'appello è stato accolto da molte persone, non che questo ci stupisca più di tanto, proprio per le parole d'ordine che caratterizzano questa mobilitazione, che noi appunto abbiamo chiamato un assedio alla Regione Lazio. È ormai arrivato il momento insomma che i movimenti uniti contro la crisi, o comunque tutti quelli che stanno lottando ogni giorno contro il sopruso i tagli della Regione Lazio, scendano in piazza e facciano appunto questo assedio alla Regione. Siamo adesso vicino alla metro San Paolo, e l'appuntamento era alle 9:30, ma velocemente la piazza si è riempita, quindi stiamo cominciando a muoverci in corteo. Adesso ancora ci stiamo posizionando dietro al furgone di apertura. La piazza insomma è composta da molte realtà, oltre naturalmente alle varie soggettività che hanno accolto questa mobilitazione. Ci sono i movimenti per il diritto all'abitare che contestano il piano casa. Ricordiamo tutte e tutti che l'anno scorso ad agosto i movimenti avevano subito insomma una forte repressione durante l'approvazione del piano casa. La regione a Via della Pisana avevano raggiunto però ottimi risultati, che erano quelli di ottenere un finanziamento specifico annuale per l'edilizia residenziale pubblica, e questa invece con la nuova giunta Polverini è stata cancellata. Cioè le lotte di chi protesta per un diritto all'abitare sono state vanificate, o comunque si sta facendo questo tentativo di vanificarle soltanto con il cambio della giunta. Naturalmente questo non può essere tollerato, e per questo con molta determinazione oggi i movimenti per il diritto all'abitare vogliono un incontro con la Polverini e con gli assessori di riferimento, perché non si faccia un passo indietro sulle rivendicazioni ottenute con denunce, cariche e le lotte quotidiane. Non solo, se parliamo poi di cambiamenti della nuova giunta, non possiamo dimenticare la legge per il reddito minimo garantito. È presente in piazza e apre questa manifestazione il neonato comitato di lotta per il reddito garantito. C'è quelle centinaia di disoccupati e precari che hanno fatto la domanda e ottenuto il reddito minimo garantito, e lo stanno aspettando da più di un anno. Infatti ricordiamo che le graduatorie sono uscite a settembre dell'anno scorso, quindi più di un anno che, nonostante l'approvazione della legge, non hanno ancora ricevuto nessun tipo di riconoscimento. E quindi già con la settimana scorsa, con un'iniziativa sotto la regione, per non parlare poi di quelle centinaia di domande in EVA, per non parlare poi della poca copertura finanziaria, una legge sì molto avanzata, perché scritta anche, diciamo, imposta dai movimenti alla scorsa giunta, ma che aveva una copertura finanziaria molto piccola, quindi anche le centinaia di domande rimaste inevase. Sì, infatti sono 115.000 domande in un mese di apertura della proposta della legge, quindi in un mese 115.000 domande con 4.000 soltanto entrati di beneficiari, e ancora nessuno. C'è una legge all'avanguardia, quella del Lazio, che risulta per ora completamente vanificata, anzi doveva essere triennale, e la Polverini ha già tolto 2 anni invece del finanziamento. Quindi anche i disoccupati e precari sono molto determinati a far sentire le proprie proposte sotto alla Regione Lazio. Ci sono non solo naturalmente quelli che ho citato ora, ma ci sono anche centinaia di lavoratori, dagli operatori sociali a invece quelli della sanità, che con i tagli della regione vedono a rischio i propri posti di lavoro e i propri diritti. Quindi ci sono sigle sindacali che oggi sono qui presenti con i propri lavoratori e che insomma in corteo arriveranno fino alla Regione Lazio. Io ne citerei poi almeno altre due di movimenti lotta, quelle per la salute e per l'ambiente, E se non sbaglio sono presenti oggi anche in piazza, ma poi anche i comitati, le donne dei consultori che si battono contro appunto la proposta di legge Tarsia di riforma dei consultori. Sì, infatti, oddio, scusami che ti sento male, non so quali hai citato. No, mi senti ora? Dicevo, almeno poi altre due, a parte i lavoratori, sono sicuramente da citare delle situazioni che staranno oggi in regione, i comitati per la salute e sì. per la salute e l'ambiente e le donne, i comitati che si trovano sì. attorno alle battaglie dei consultori contro sì. la riforma, contro la proposta di riforma dei consultori della Tarsia, eletta come esponente del Movimento per la Vita. Sì, infatti non dimentichiamo che le donne, oltre a protestare e rivendicare quello che hai detto tu, oggi è una giornata particolare perché è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi quella di oggi, di stamattina, sarà una delle iniziative messe in campo dalle donne di questa città per ricordare questa giornata, ma essere attive e autodeterminate per cercare appunto, a partire dalla Regione Lazio ma anche sulle iniziative di oggi pomeriggio, di continuare a dire no alla violenza sui propri corpi e sulle donne. E poi appunto, come dicevi tu, non dimentichiamo invece il Comitato contro le nocività, che da tutta la Regione Lazio sono venuti oggi qui per continuare con sotto la dopo l'approvazione la discussione del piano rifiuti e insomma tutto quello che ci le discussioni contro il nucleare eccetera, anche oggi loro sono venuti in una forte insomma consistente delegazione e staranno con noi insomma in questa giornata che si prevede comunque molto lunga e determinata, perché le voci insomma che ci arrivano è di una regione sorda alle proteste dei movimenti, e quindi noi oggi siamo a ricordare con una delle prime iniziative che faremo, che naturalmente quindi cercando di unire le varie lotte che insomma abbiamo citato in questa mattina, si possono e si devono raggiungere dei risultati che da soli insomma si sentirebbero a raggiungere, e questa potrebbe essere la forza di questa giornata. Ok, allora andiamo, un abbraccio in bocca al lupo, ci andiamo a risentire